anche la partizione di destinazione dell'installazione che si andrà a fare, ed è qua che possono nascere dei casini anche bruttini, per cui dopo aver fatto queste operazioni qua il GRUB non è più in grado di far partire qualche volta anche niente. Tipico errore 22, proprio non presenta nessun menu, da butta fuori errore 22, e là allora dobbiamo andare a reinstallare il GRUB, magari con una Knoppix. Non è l'unica tecnica possibile, insomma. Una volta si usava molto un dischetto, magari adesso è possibile crearsi un CD con un GRUB, ma non lo trovo necessario se semplicemente con un Knoppix si riesce a fare il tutto lo stesso. Vabbè, solito tastiera mi chiede, non mi interessa l'italiano. Vediamo se ecco, in pratica questo è un Linux che non ha molto di più, DigiParted installato con un window manager minimale. Qua mi mostra la situazione del disco. Se ce ne fosse più di uno si va qua e si cambia. Questa qua vediamo il modo di denominare i dischi di Linux e non di GRUB. Chiama SDA il mio disco, SDA1 la prima partizione, poi qua ho la prima primaria, una grande estesa che è tutta contornata di azzurrino, vediamo, ecco, sotto anche, ecco, questa è l'estesa che adesso vedete tratteggiata, che contiene tutte le altre logiche. Normalmente uso una partizione di swap sola, che tutte le diverse distribuzioni usano, e per ogni partizione corrisponde un sistema operativo differente. Se ci fosse un Windows, qua vedreste una partizione che al posto di questo file system XT3, che è quello di Linux, ci sarebbe un NTFS. Qua abbastanza intuitivamente si sceglie una partizione, e non quando è così, quando ci sono le due frecce posso andare a ridimensionarla. Qual è la differenza da quando ci sono le frecce con questa forma o a croce? A croce significa che la vado a spostare. Notate anche lo spazio prima e lo spazio dopo, la dimensione che resta costante. Posso anche fare di questi giochi, facendo attenzione a una cosa però. Questa zona che si vede in giallo corrisponde ai dati contenuti nella partizione. Se faccio un'operazione di questo tipo, restringere questa partizione, si vede anche intuitivamente che probabilmente saranno interessati dallo spostamento pochi dati. Se faccio una cosa di questo genere, è chiaro che ne vengono spostati tanti. Ve lo dico per esperienza, perché fare questo lavoro qua piuttosto che questo, in termini di tempo, vuol dire molto. Facilmente fare un'operazione di questo tipo la fa minuti, qualche decina di minuti. Invece un'operazione di questo tipo qua, operazioni di questo tipo qua possono andare, ci può impiegare anche ore, una, due, tre ore per fare queste cose, è da tenere presente, insomma, se si può cercare di muovere il meno possibile dati. Si può, adesso possiamo ad esempio restringere questa, creo dello spazio libero, quello che di solito cosa voglio fare? Creare dello spazio per un'ulteriore installazione, crea una nuova partizione, aggiungi, e questo in genere non crea confusione, perché nella numerazione ho la partizione 1, sono numerate così. Normalmente se faccio questo genere di operazione aggiunge una partizione, ma non è detto. È bene controllare anche a questo punto se ha scombinato i numeri delle partizioni, perché già ci mette un po' in allarme. Non fa niente finché non gli si dice applica. Ecco. Per dire, io avevo due partizioni swap insignificanti, volevo mettere un po' d'ordine, le ho volute cancellare per fare una cosa più pulita con una partizione di swap soltanto, però l'aver cancellato due partizioni e aver allargato le altre che erano vicine mi ha cambiato tutti i numeri, i numeri delle partizioni. E allora, fatto questo ordine che ho fatto, oppure se vi siete creati lo spazio per la partizione e l'avete creata, in quel caso si installa, non ci sono problemi, alla fine quando crea la partizione vi dà il numero della partizione e lì sapete quando fate l'installazione di dirgli vai a installarti lì. Adesso non mi dà il numero della partizione, quando ha finito mi dà un numero e noi sappiamo che è quella dove vogliamo andare a installare. Scusa. Dimmi. Se tu ridimensioni una partizione, cambia anche l'UID, giusto? Nella partizione? L'UID? L'identificativo che poi hai usato anche dentro Grub. L'UID. E dopo Grub. Non solo lui, anche se l'ha cioè, hanno Grub parte da 0 e Linux parte da 1, ma se ha scombinato le cose Grub non ci capisce più niente. No, stavo dicendo, prima hai mostrato il menu list. Sì. Quando tu, dopo il comando di root, hai, quando gli specifichi il kernel, gli specifichi anche un numero di partizioni, che è l'UID. Ci può salvare quel numero magico là, va direttamente a pescare la partizione indipendentemente dal numero che ha. Esatto. E allora se creare casi cambia l'UID e non ti funziona più Grub, neanche l'FS tab non la monta più. Sì, perché quello è un hash che si calcola sulla partizione. Lo puoi rifare. Aiuto. Sì, ma c'è un comandino che la rifà. Le tecniche della, non ricordo nemmeno io con esattezza in base a cosa venga calcolato, da dove salti fuori esattamente, però sì, era su quello che accennavo prima, in cui si è cercato di dare un nome, tra virgolette, univoco a una partizione, indipendentemente dal numero delle tabelle delle partizioni. Probabilmente cambia, esatto, in base. Sì, per virgolette, è qualcosa che ho visto è legato al file system che c'è dentro, e quindi probabilmente cambiando la dimensione del file system, probabilmente l'algoritmo calcola una chiave univoca. E c'è un comandino comunque per ricalcolare la chiave. Sì, di solito c'è già impostata, nel senso, visto che per le distribuzioni recenti, quando crea il file system, già ci aggiunge lui lì. Sì, c'è un Ma se vuoi, senza cambiare l'FS tab o Grub, puoi anche impostargli la poi diglielo tu, lo calcolo, gli metti la vecchia che avevi. Esatto. Se devi ridimensionare, l'unico modo per evitare di tocchignare in giro è questo. Sì. Sì, esiste un comando per calcolarlo e andarlo a correggere, insomma. Adesso non mi ricordo qual è il comando. Quello che io faccio di solito è andare a mettere il numero della partizione, insomma. Se si edita e si elimina totalmente in modo che veda solo il numero della partizione, si recupera o no? Funziona. Sì. Io faccio così, insomma, quando glielo cambio quel ID là, se non funziona più, gli vado a dire dev SDA5 al posto di tutta quella roba là, FSTab lo accetta e anche gruppo. Non è group, non lo usa, no, lo usa il kernel, cioè, sì, nell'istanza puoi di mettere, poi invece puoi sostituire l'UID con la solita convenzione di Linux dell'HD SDA1, quello che è, se non si sa quello giusto, esatto. Qual è. Ok, bene, allora qua abbiamo creato lo spazio, creato una partizione dove poter installare Linux. Tipicamente quando faccio questa installazione su questa nuova partizione che mi sono creato, alla fine dell'installazione vado a dire a Grub di installarsi all'inizio di questa partizione, perché avrò già un Grub nel master boot record, e dopo vado a correggere il master boot record creando un chain loader a questa partizione qua. Volendo potevo mettere un'istanza con il kernel di questa, si può fare anche così, insomma, senza fare il chain loader, senza installare il grub all'inizio di quella partizione là, si può fare anche così. Quello che generalmente fa in automatico, prima avevamo visto Debian, il group di Debian che stava all'inizio della sua partizione, che aveva anche tutti gli altri kernel, no? Perché alla fine dell'installazione, quando lui va a installare group, anche se lo installa all'inizio della partizione, controlla se ci sono altri sistemi operativi e vede di farli avviare con la tecnica di specificare il kernel, ogni kernel. Boh. Allora, adesso supponiamo, allora uscire un attimo, sì, esci, non fare niente per piacere, esci, cioè qua bisogna dare apply, quando si è finito di fare quelle cose. Ah, un'altra cosa magari, state attenti che qua magari vi sembra che non si possa muovere, dunque questa cancelliamola, magari questa voi la volete andare a ridimensionare e non si può. Perché non si può? Perché bisogna andare ad ampliare quella estesa, cioè bisogna scegliere la estesa, lei aumentarla, e a questo punto si può allargare SDA5. Cioè prima bisogna ampliare la estesa che contiene le altre per poter muovere quelle che sono all'interno, insomma. Bon, detto questo, supponiamo di aver fatto un bel casino, che magari l'abbiamo fatto sul serio, no? Vabbè, se lo avessimo fatto sul serio sarebbe un buon esercizio. Staremo qua a aspettare spostamento. No, appunto, non ha fatto niente perché un po' di tempo ci mette. Tra l'altro, Gparted fa parecchi controlli e anche per una cosa semplice ci mette diversi minuti e mi dà più affidamento di quanto non faccia un Ubuntu. Quando gli si va a dire di ridimensionare la partizione, fa sempre un check disk, ogni operazione molto pignolo. Allora, se i casini non ne fossero nati, sarebbe sufficiente installare nella partizione nuova, andare a dirgli il group di questo nuovo di questo nuovo Linux di andare a mettersi all'inizio della sua partizione, poi ci basterebbe far partire il GRUB, cioè la distribuzione che fa capo al GRUB che è installato nel master boot record, e andare a aggiungere a chainloader. Noi invece consideriamo il caso peggiore. Non si vede di nuovo. È solo dopo si sistema. Scrivo solo lang it, che neanche mi serve granché. Knopix lang uguale it, solo perché prenda